A Radio Città ti dico sono le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, sintonizzati insieme ai 103-100 modulazioni di frequenza. Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Franco Paoletti, al di là del vetro ovviamente c'è il nostro Bolognese Volante, buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio, la vedo distratta. No, è solo che ho silenziato in questo momento il cellulare, però insomma è cosa sono buona vivo, e giusta. Esatto, e sono vivo e vegeto, nel senso che sono in vigile attesa, come si dice, e quindi siamo pronti per una nuova ennesima immersione nelle novità discografiche e quant'altro. Non vedo praticamente nella nostra playlist di oggi cose sanremesi, quindi insomma non parleremo di Sanremo. Sanremo è finito, Paoletti. Vabbè, però le canzoni viaggiano, ma sì, certo, però se ne parla ancora nell'aria, si sente ancora lei, io non nell'aria ne parlo. Ma vabbè, nell'aria c'è anche questa atmosfera, nell'aria c'è così, già nell'aria c'è polline di te, felicità. È vero, felicità, vabbè. No, nel andiamo senso avanti, che comunque Paoletti, sono appena uscite, ma adesso già no. Sono già appena uscite le uscite discografiche sanremesi. Le uscite sono uscite. E le uscite non sono entrate, uscite. Sono uscite. Okay, ah, però c'è una va logica bene. Bando alle ciance. Pavloviana qua dietro, eh. Bando alle ciance che lei mi confonde e mi fa dire dei strafalcioni e io insomma non così non voglio così avere ecco, bravo, non voglia non, ecco, non voglio avere discussioni con chi che bravo. Sia bene, allora buon pomeriggio, dicevo 333 180 94 94 per entrare in contatto con noi, con la nostra redazione, per a vostra per i vostri short message. Siamo qui, risponderemo al limite del possibile, poi c'è una insomma una, come si può dire, non lo so, lei non mi coglie sempre impreparato, laboriosa redazione che sta insomma che sta praticamente lavorando per noi, quindi direi di cominciare un bene. Un giorno me la farà poi conoscere questa redazione. Beh, basta aprire la porta e vede la nostra redazione. Scusi, di là sono tutti in redazione. La porta, vivo no, segregato. Salutiamoli questi poveri cristi. Salutiamo che lavorano, ecco, e che lavorano. Si prodigano. Allora, oggi domenica 19 febbraio 2023 abbiamo una ricca playlist. Iniziamo immediatamente con Tal Francavilla, ci presenta Due settimane. Tal Francavilla. E un'altra sera è andata via quasi come magia, è scivolata tra le onde che parlano di tutto quello che vorrebbe dirci il mare. Stiamo ad ascoltare. Quando cammino insieme a te sento che tutto tace, quasi come se anche il silenzio non vuole disturbare. Se tornano i gabbiani ci sorprenderanno stesi sulla riva. Penseremo che tutto sia andato a puttane, che ormai ci siamo persi e non mi resta che scrivere per te, che scrivere per te. Perché sei la fine del mondo quando ti svegli, mi guardi, mi sorridi e ti sciogli i capelli, mi chiedi che ora è, sono le 8 e ti preparo il caffè. Che durano due settimane. E un'altra notte è andata via, ora quella magia è diventata semplicemente poesia. Raccolgo una conchiglia che racchiude quello che vuol dirci il mare. Se l'avvicini all'orecchio vedrai che ti piace, almeno per un attimo troverai la pace. Se fuori guerra dentro sarà amore, quello che vuoi tu, quello che vuoi tu. Penseremo che tutto sia andato a puttane, che ormai ci siamo persi e non mi resta che scrivere per te, che scrivere per te. Francavilla, Due settimane. Cantautore pugliese, tra i più attivi nel territorio ionico, si è fatto conoscere con diversi singoli. Ecco, questo è quello nuovo che si intitola appunto Due settimane. Un pezzo interessante che nasce, dice, con la voglia del vecchio cantautorato, dove insomma la musica è importante e fa d'accompagnamento a delle parole che devono avere un profondo significato. E così è stato. Francavilla quindi ci ha presentato questo singolo. Direi di passare alla prossima, che è poi nella fattispecie una cantautrice giunta al suo quarto singolo. Si chiama Naya e si intitola il suo singolo E me lo dici te. Eccola qua, una giovane artista a 360 gradi, perché lei si definisce una poliedrica dell'arte, diciamo così. E lei praticamente è già figlia del mondo, nel senso che ha girato il mondo veramente con le sue arti, le sue performance, perché non solo canta ma addirittura recita e fa praticamente l'artista tout court, come si suol dire, praticamente a tutto tondo. Tondo veramente, canta, balla, insomma una sorta di Raffaella Carrà, diciamo. E Naya, io direi che forse è il nome che la penalizza, perché come si fa a chiamarsi in Italia Naya, non lo so. Comunque bella battuta Paoletti, bravo. Grazie. Comunque lei ha studiato anche a Londra e quindi insomma ne avrà viste sicuramente tantissime, ha capito un po' come è il meccanismo insomma dello show, e praticamente lei anche ha ottenuto una prima laurea proprio in scienza, come si può dire, il DAMS qui forse, diciamo l'equivalente. Durante il suo percorso artistico, Naya si è dedicata anche a scrivere canzoni con l'intento di raccontare e condividere la sua storia con i ragazzi di oggi, come ragazzi come lei ovviamente. Lei addirittura ha anche scritto delle performance teatrali che sono state sono andate proprio in scena, e quindi anche diciamo le si apre le porte anche dei musical, perché no, insomma lei comunque è brava, è giovane, è bella, una bella ragazza. Vi invito ad andare a vedere anche i suoi video. Nel 2002 pubblica il suo terzo singolo per la Phonoplay, intitolata La più bella sei tu, e dopodiché una canzone in inglese è arrivata a questo nuovo singolo, che è il suo quarto nella sua carriera artistica, che appunto abbiamo ora ascoltato. Complimenti, quindi si divide tra teatro e poi televisione e musica e quant'altro. Complimenti a lei. A questo punto io direi di presentare invece anche il prossimo autore. Sì, si chiama regia Ferrante Anguissola o Anguissola o Anguissola, Anguissola, non lo so, e ci propone Sinfonia di mare. Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane, al mattino i rumori si fanno più lievi, li senti lontano, ti prendo la mano. Senti il sussurro dei pini del mare, senti come cantano le loro cicale, al mattino i rumori si fanno leggeri, ti prendo per mano, ti porto lontano. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. E tu sei là, là sulla roccia, ti annodi i capelli e i tuoi pensieri, insieme ai rumori che giungono leggeri, ti prendono per mano e ti portano lontano. E tu sei là, alta nel sole, dove sono i confini, dove i nuovi orizzonti. E tu sei là, tu voli e vai su, e ora dall'alto irradi il tuo canto. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. Guarda, Ferrante Anguissola o Anguissola con Sinfonia di mare, Paoletti. Ci racconti, sì, tutto. Ah, qui ce n'è praticamente per tutta la puntata a parlare di questo artista che è quasi un novantenne, quindi assolutamente non nuovo nella musica italiana, e quindi è un grande personaggio attivo dagli anni 50. Lui è stato forse un primo cantaustorie nostrano uscito appunto dagli ambienti italiani, per poi così coprire praticamente tutta Europa, per poi ritornare in Italia con tantissima esperienza, e quindi insomma ha lavorato in Rai, ha lavorato ovunque lo chiamassero, e devo dire che si è costruito un bel curriculum che vi invito ad andare a così a scrutare. Io non riesco a fare una sintesi, comunque questo è il suo nuovo singolo Sinfonia di mare. Lui arriva da Cremona e che dire, che è un grande personaggio della musica italiana, anche se diciamo minore rispetto ad altri, però veramente ha lavorato con dei mostri della musica italiana, quindi insomma ce n'è, c'è una ricca biografia su di lui. Molto interessante. Molto interessante, bravo, e quindi l'abbiamo voluto accogliere proprio perché insomma ha 91 anni, complimenti ancora, insomma lavora migliore ancora, e devo dire si difende bene, non l'avrebbe sfigurato in questo Sanremo, glielo dico io. E a questo punto noi andiamo avanti con Antonio Pugliese, ci presenta Breathless. Battle while inside yourself. If you love someone, don't forget the misery till everything is gone. Everything is over. Let me go away. We are going under. We are going away. Let me go away. Everything is going around, around. Everything is burning. In the rain, sitting on a driest bench. Love is like a thunder, light is something swift. Why your body flaws in your most hidden corner. Everything is gone, everything is over. Let me go away. We are going under, we are going away. Let me go away. Everything is going around, around. Everything is burning around, around. Every can be lover, every can be dreamer. But close your eyes and start to write your real life. Everything is going around, around. Everything is burning around, around. Every can be lover, every can be dreamer. But close your eyes. Antonio Pugliese, Breathless. Esattamente, anticipazione del suo terzo album dal titolo Slipped Soul. Antonio Pugliese praticamente ha scritto questo album in quest'ultimo anno, e soprattutto questo brano è stato scritto e registrato in una notte, rientrando da un viaggio in California sotto l'onda di molteplici vibrazioni positive. Così è quanto ha dichiarato il cantautore, che arriva dalla Puglia, se non sbaglio. Sì, è così. Quindi nuovo album Pugliese, nuove... di nome di fatto, quindi il Pugliese, esatto, deriva dal fatto che è dalla Puglia. Probabilmente, non lo so. Comunque è giunto al suo terzo album, questa è l'anticipazione che andiamo così a scoprire, in attesa appunto di nuovi sviluppi, anche perché lui ama molto, diciamo, le sonorità anni 90, e qua insomma ne vengono fuori, escono proprio fuori i suoni di Liam Gallagher. Esatto, e quindi ci piace, ah, bene, ci piace molto. Ci piace a lei, Paoletti, piace a tutti. A questo punto, tra le nuove uscite discografiche, esce anche il nuovo singolo di Bracco di Gracci, che avevamo intervistato proprio tempo addietro, perché era uscito il suo singolo dopo diversi anni di silenzio. Ritorna il suo nuovo proprio singolo per quanto riguarda questo periodo. Si intitola L'uomo che vedi ed è già un'anteprima, insomma il video è già uscito, però insomma per noi è un'anteprima. Bracco di Gracci ci presenta L'uomo che vedi. Non sono più io l'uomo che vedi. Ma ho sempre Dio tra le pareti. E sono seduto sulle mie mani. Che cercano ancora il domani. Che qualcuno ha venduto per pochi soldi un po' di più. È qualcuno che non ci vuole più. Cerco un nuovo mondo che non abbia vento, che porta via i sogni sempre più in là. Cerco un nuovo giorno senza nebbia intorno, che non ti fa vedere mai cosa c'è di là. Vivere sempre nell'incognita. L'uomo che vedi, e spingo sempre più forte sulle pareti, con fatica i miei nervi un po' compromessi, ma è la rabbia. Racco di Graci, l'uomo che vedi, siete all'ascolto di Easy Pop, sono le ore 15:21, questa è la puntata numero 7 di oggi, domenica 19 febbraio 2023, chi vi parla il Bolognese Volante, dall'altra parte c'è Franco Paoletti, sempre più bravo, Bracco di Graci, che dal precedente Così è la vita, arriviamo all'uomo che vedi, nuovo singolo, tra l'altro ci ha proprio spiegato prima del licenziamento del nuovo album, dell'uscita appunto di questo nuovo album che arriva dopo tanto silenzio. Ci saranno diversi singoli, ci aveva spiegato Così Bracco durante la nostra intervista, le nostre quattro chiacchiere da salotto. Bene, ci ha spiegato che usciva questo singolo e che stava preparando appunto il video, e devo dire che i video e il singolo sono usciti, molto bello e particolare il video, vi invito a così a guardarlo, è molto cantautorale come appunto ci aveva detto nell'intervista, è molto concentrato su se stesso, è un album introspettivo, vero è che è questo l'uomo che vedi appunto, e lo è di fatto, è proprio bello, eh? È un po' intervista che vi invitiamo ad andare ad ascoltare, certo, cliccando sul web, digitando www.radiocittafugico.it e cercando con la lentina le interviste di Easy Pop, usciranno fuori tutte, le potrete scegliere e scegliere quella che più vi interessa. In questo caso Bracco di Graci, che appunto sa che essendo bolognese accende la radio spesso e quindi ci ascolta, quindi un saluto a lui nel caso ci stesse ascoltando sia in diretta o in replica, insomma sappiamo che siamo la sua radio preferita. Bene, detto ciò, cosa abbiamo regia sul piatto numero 2? Luca Casali con L'estate sospesa, ascoltiamolo. Gelide rive bruciate da un sole nero, che solca le spiagge e risale un giorno ancora. Scopre, ferisce, ricade oltre il velo. È il silenzio. La vita che chiama la primavera, mentre la terra si nutre dei suoi sicari. L'estate alle porte si ferma sull'uscio e muore. Sopra il deserto della mia città, senza equilibrio sulla realtà. Un sonno leggero in fondo al mare, balena, ricordi d'un cielo. Luca Casali, l'estate sospesa su questo brano. Approfitto per salutare Marzia di Gorizia e Stefano di Vicenza, il quale ci chiede perché non intervistiamo Rosa Chemical, ma ne parliamo dopo. Ma sì, noi non intervistiamo Rosa Chemical. No, noi potremmo fare di tutto, interviste, però abbiamo il tempo. No, ma vabbè, tra contatti o altro è anche diciamo facile raggiungere gli uffici stampa e quant'altro, ma insomma diciamo che il tempo poi è quello che è, perché io intervisterei tutta la nazionale di cantanti, insomma tutti i cantanti. Però qui insomma il nostro tempo è limitato, sì, quindi cerchiamo di così estrarre i personaggi che niente, ci paiono più Stefano, curiosi. Ci dispiace, niente intervista a Rosa niente Chemical. Rosa Chemical almeno per il momento, non almeno so se i colleghi momento. Esatto non lo facciano, non escluso insomma. A questo punto noi parliamo invece del praticamente prossimo di Luca Casali, ha già parlato. No, non ho proprio parlato, ecco, dica, lei mi parla di cantanti quant'altro, io mi perdo un attimo, invece no, volevo raccontare qualcosa di Luca Casali, non nuovo a scelte discografiche azzardate, perché faceva parte prima di un gruppo, poi diverse esperienze, finché comincia la sua così la sua diciamo carriera da solista e pubblica nel 2014 il suo primo album Time to Smile per la New Model Label. Io infatti mi ricordo questo disco anche perché c'era Govind insomma all'epoca, un saluto, che pubblica, un saluto, salutiamolo sempre. Nel 2018 poi pubblica il suo secondo album, La Sesta Estinzione, si chiamava così, e poi via via insomma altri singoli per arrivare insomma a questo nuovo album, dove ci sono così forme acustiche un po' elettroniche, così ha cambiato completamente modo di fare, e arriva al singolo Campi in Fiore, che era uscito un po' prima mi sembra di Natale, per poi arrivare a questo nuovo singolo che si intitola L'estate sospesa. Devo dire che già sento profumo di primavera e estate con anch'io, questo tant'è singolo. Che ho aperto la finestra, ha fatto benissimo, e a questo punto posso finalmente presentarvi anche Tommaso Spaltro, giusto? Regia? Corretto. Se la regia no, mi ha scritto corretto. Giusto, è così. Bene, noi ci ascoltiamo di lui, ma c'è qualcosa al titolo del singolo. Scopriamo cosa. Oggi mi sento come un pacco di Amazon senza destinazione. Due parole buttate di getto, scrivo questa canzone. Poi ci sei tu che non vedevo. Proprio adesso che non mi sento bene lo stesso, ero io che ero scemo. Sprofondo dentro questo ricordo che non fa più male. E aspetto la fine del mondo perché non so che fare. Poi ci sei tu che non volevo. Proprio adesso che ti voglio bene lo stesso, come fossi uno scemo. Anche l'amore si prende gioco di me, anche io come tutte le volte che ripenso a te. Ma c'è qualcosa che non sempre viene bene da rifare, come la mia musica che non riuscirà fin quando non ci metto dentro un'altra idea di libertà. Strada mi porta dove non voglio andare. Mi chiedo perché anche stavolta non ti ho visto arrivare. Io ho perso già quest'occasione per fermarmi e guardarti dall'alto come questo aquilone. Anche l'amore si prende gioco di me, anche io come tutte le volte che ripenso a te. Sembra più un attore che un cantante questo Tommaso Spaltro, gli occhi azzurrissimi veramente. Questo è il suo singolo, non dico di debutto perché nell'Italanda romano, insomma regionale, era già conosciuto. Dicevo, questo è l'anticipazione del disco di prossima pubblicazione, singolo frutto delle collaborazioni tra l'artista e il suo produttore artistico Vincenzo Mario Cristi, che ben conosciamo come insomma editor. C'è da dire che lui praticamente si è messo a lavorare a questo nuovo album dopo aver conosciuto appunto il suo produttore, che gli ha detto: sai cosa facciamo? Realizziamo un album contenente dei singoli, ma appunto che sarà insomma un po' particolare. E in effetti è proprio così. Ha cambiato registro questo cantautore, che prima ovviamente era già capo di band, quindi aveva già un nome nel circolo romano. Detto ciò, che c'è da fare, regia? Lanciare la pubblicità, Paoli. Abbiamo la reclam, rientriamo veramente fra poco. Voi continuate a seguirci e a scriverci al 33 180 94 94. Non andate via. La rivoluzione digitale è arrivata. Da quest'anno è ancora più semplice iscriversi all'ARCI. Scarica la nuova app, scegli il tuo circolo o la tua associazione e ottieni subito la tessera digitale per restare aggiornato sulle iniziative della tua città e scoprire tutti i circoli su una comoda mappa. Non solo, con l'app ARCI avrai anche a portata di click tutti gli sconti e riduzioni riservati ai soci ARCI nei cinema, teatri, musei e locali convenzionati. Scarica la nuova app dell'ARCI dagli store iOS e Android. È gratuito. Quest'anno salta le file e associati subito. Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic. Potremmo parlarvi dei materiali ricercati e durevoli, della linea e della forma dei nostri arredamenti, ma preferiamo raccontarvi come ci piace rendere la vostra casa unica e disegnata intorno a voi. Bertocchi Arredamenti, una grande passione per l'arredo dal 1964. Personalizziamo ogni vostro ambiente con falegnameria interna per adattare ogni arredo ai vostri spazi, con assistenza post vendita sempre presente e con i migliori brand nazionali come Stosa e Moretti Compact. Bertocchi Arredamenti è in via dell'Intagliatore 15 a Bologna e su bertocchiarredamenti.com. Bertocchi, ogni mobile, una storia. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. E invece noi rispondiamo all'appello per così questa seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi parla. Di là del vetro ovviamente c'è il Bolognese Volante. Domenica 19 febbraio 2023 Easy Pop vi presenta insomma quelle che sono uscite, quelle uscite discografiche che sono appena appunto state licenziate durante la settimana. Rigorosamente indie. È molto indie in effetti quest'oggi, e devo dire molto particolare, perché abbiamo selezionato del materiale davvero interessante, per dire mamma mia quante uscite, quanti cantautori e quante storie c'è appunto dietro ogni singolo che noi vi presentiamo. Per esempio quello di Dario Dont, che ci presenta Non fare rumore, il suo nuovo singolo. Per quanto lo riguarda, si chiama Dario Dont, è un personaggio che comunque stava già dietro a un gruppo musicale Questo è il suo primo album da solista, tra l'altro il suo gruppo, che praticamente non è sconosciuto e non è nuovo alla musica indie, vinse il premio May come live band nel 2009, quindi insomma tant'è che praticamente è lì che si è fatto conoscere. E poi via via insomma sono usciti 3 album, 3 EP e insomma tanto lavoro per arrivare a questo nuovo album da solista per Dario Donte, e ci presenta appunto questo singolo, anticipazione come dicevo di un album. Ascoltiamolo insieme, Non fare rumore. Capita anche ovviamente alle migliori radio magari di spingere il pulsante sbagliato, e questo era Andrea Riccio, Fuori di me. È partito un piatto anziché l'altro. Esatto, quindi ha solo confuso i 2 piatti, ma non c'è problema. Abbiamo ascoltato invece Andrea Riccio, cantautore italiano, nato nel settembre 96 a Grosseto, e non nuovo a uscite discografiche e soprattutto seguitissimo da tantissimi su TikTok, no, TikTok. TikTok. Non so cosa sia, non voglio neanche sapere. Ecco, dove ha già inciso appunto dei singoli, dovesse essere seguitissimo. Tra l'altro era seguito anche dalla Sony Music quando uscì il suo primo successo, Principessa. Insomma, lui ha anche una copertina, insomma, accattivante per quanto riguarda le ragazze. È un personaggio molto seguito, come vi raccontavo, sui social. Tant'è vero che in pochissimo tempo, con dei video divertenti, insieme poi a sua nonna, perché è coinvolta anche la nonna, è riuscita a conquistare 230.000 follower. Praticamente adesso il suo profilo conta 2,7 milioni di like, quindi che dire, non male, è vero, per lui. Allora, dopo questa inversione di piatti, esatto, facciamo partire quindi diamo adesso spazio a Dario Dont, di cui vi raccontavo prima la storia del gruppo musicale e quant'altro. Nuovo singolo si intitola Non fare rumore. Brano sperimentale. Pesi da regalare, impacchi spediti a Natale. Sentivo dire amore è tutto normale, ti pare. Capire, dire abissi da non colmare. Non fare troppo rumore, non fare troppo rumore, non fare. Thank you. merda di restare solo a guardare. Che pace, capelli a sole, vedo un po' di grigiore. Non fare troppo rumore, non fare troppo rumore, non fare. Sento l'odore, a farne spicchi il dolore, mi sembra minore. Correva l'anno, corre ancora, anzi ancora ti piace troppo rumore, non fare troppo rumore, non fare. Ah, però sale questo brano di Dario Don't, non fare rumore, di rumore un po' ne fa. Non le dico le battute che stanno arrivando al telefono sulle sue TikTok anziché TikTok, volete. Poi tocca a me rintuzzare le sue battute. No, e le mostre cioccolatini, non perché io qui nulla. La redazione mi ha regalato, non e c'è un motivo, insomma, dei cioccolatini, lei lo sa, particolari, quindi no, vada no, avanti. Va bene, andiamo avanti. Benito Ursu, no, non allora mi mostri nulla, non mi mostri nulla. Mi scuso quindi con gli ascoltatori. Se per caso, però è venuta così. Comunque, noi a questo punto abbandoniamo anche la musica di Dario Don't, non fare rumore, e andiamo ad ascoltare invece questo personaggio che è un po' figlio dei suoi tempi, nel senso che comunque lui cresce col cantautorato italiano da una parte, sì, ma cresce anche cantando brani, e poi suona brani tipici del mondo trap, rap, segue insomma Gali, Geminites, poi Kia, Ernia, Madame e tanti altri, tant'è vero che appunto questa è la nuova scuola delle nuove generazioni della musica rap. Con tutti i suoi derivati pubblica insomma questo suo EP che praticamente contiene il singolo che oggi andremo ad ascoltare. Regia, allora le vengo in soccorso. Esatto, Ielo ci canta Ius Soli e non diciamo altro. Esatto, attenzione, ascoltate. Ringrazio le parole. La mia tipa per le prese male, precisione millimetrica con le parole usate, anche se appare isterica mi trasmette la pace. Se non conta l'estetica, se l'anima ha un valore, il cuore non mi batte se non sei qui a cullarlo. Il mondo è da salvare, l'uomo ci gioca d'azzardo con lui, pare che non stiate ascoltando. Abbiamo muri di carta ma le finestre di marmo, mamma cambia, la storia deve farlo. Il tesoro della scienza fra lo stiamo sotterrando, le radici della terra invece adesso vengono fuori come le bugie innocenti da bambino ai genitori, ma vent'anni dopo le ridimensioni. E così dovremmo fare fra pure con le missioni, ma quando c'è da parlare ci sono solo missioni. Sono più sincere in carcere le chiacchiere degli uomini. Vorrei lo Iusoli, dare una chance a popoli, dirgli non siete soli, curare con il propoli un po' tutte quelle voci che se parlano concordi solo quando gli rispondi a tono. Siete una manica di stronzi proprio, e non mi sento un italiano, io non mi ci trovo. Mi sento a casa più a Lugano solo un mese dopo. Tutto l'odio per lo Stato va sputato addosso, ma solo a chi l'ha generato, non chi ne è travolto. Mi sento già un travolta, ho 10 volti addosso, è sempre la mia prima volta, io non mi conosco. Quando il sole tramonta, vedi davvero il mondo che sta lottando molto per proteggersi dall'uomo. Mi sento già un'altra volta, ho 10 volti addosso, è sempre la mia prima volta, io non mi conosco. Quando il sole tramonta, vedi davvero il mondo che sta lottando molto per proteggersi dall'uomo. Ok, è una ripetizione, ma blocca il pianeta soffre, ed è solo colpa nostra dell'uso sbagliato a monte del cervello. È una maledizione con una ripercussione nel contesto biologico globale, è illogico totale, è come come se vivendo ci rompessimo le case, uccidendo ogni animale, tagliando troppe piante. Non ho davvero idea di come pensiamo di fare. Voglio ancora lo Ius Soli, dare una chance a popoli, di lì non siete soli. Più cose vanno a rotoli, meno gente sta attenta. Nel momento in cui c'è guerra, pandemia e pochi alimenti, sti dementi stanno dietro al prezzo caro della benza. Non mi sento un italiano, io non mi ci trovo. Mi sento a casa più a Lugano, solo un mese dopo. Tutto l'odio per lo Stato va sputato addosso, ma solo a chi l'ha generato, non chi ne è travolto. Mi sento già un travolta, ho 10 volte addosso. È sempre la mia prima volta, io non mi conosco. Quando il sole tramonta, vedi davvero il mondo che sta lottando molto per proteggersi dall'uomo. Mi sento già un travolta, ho 10 volte addosso. Ielo, Ius Soli, una canzone a cui ho fatto fatica a stare dietro perché dice tante cose. Ricordo invece, per chi si fosse messo in collegamento adesso con la radio o sul web, che siete all'ascolto di Easy Pop sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Cugico. Questa è Easy Pop, chi vi parla il Bolognese Volante, e dall'altra parte ovviamente Franco Paoletti. Vi raccontiamo la musica indie, il meglio che abbiamo selezionato per voi. Abbiamo appunto raccontato di più di Ielo, arriva da Genova e appunto, come i bravi cantautori genovesi, anche lui ha fotografato una situazione e c'è questo impegno, no, civile, e ci piace molto. Bravo Ielo. A questo punto rimaniamo in tema di artisti che suonano il rap, il trap, l'urban, e sono di un certo spessore. Passiamo invece a un artista invece che da Genova, ci trasferiamo sulla riva del Garda, dopo, da dove arriva appunto Scina, che ci presenterà Quattro Stipendi. Poi vi racconto di lei perché ha veramente dell'incredibile. Non andate via. Chiedi sta se cosa fai, alzo quattro stipendi. Solo stando in mezzo ai guai, dimmi cosa pensi. Se di notte sono online, i miei problemi sono chiusi nelle Nike. Fuck us the enemy, non ho problemi a mostrarti tutto ciò che ho. Vengo dal semplice, tu complicata, insieme faremo uno show. Vengo da te per scappare dai guai, poi tu mi dici perché ancora fai quelle cose lì. Parlami baby, chiedi sta se cosa fai, alzo quattro stipendi. Solo stando in mezzo ai guai, dimmi cosa pensi. Se di notte sono online, i miei problemi sono chiusi nelle Nike. Vado ancora in paranoia, penso ai miei giorni peggiori. Non c'era una via d'uscita, la musica mi ha tirato fuori. Vedo ancora i raga in zona, chi si è perso con la droga, chi invece è dietro una donna, chi non si è fatto vivo ancora. Parlami baby, chiedi sta se cosa fai, alzo quattro stipendi. Solo stando in mezzo ai guai, dimmi cosa pensi. Se di notte sono online, i miei problemi. Ah, io ho sempre detto, questi nomi, questi cognomi eccetera sono sempre più difficili. Ci vuole molta pazienza. Ci vuole molta pazienza, perché io in realtà ho confuso appunto Scina, e mi sono confuso con Raffi, il prossimo personaggio, che è veramente una ragazza. Allora, di Scina volevo Scina, sempre che sia giusto la pronuncia, perché a questo punto mi viene anche il dubbio. Comunque Scina praticamente è un cantautore che si è salvato da brutte compagnie e appunto come riscatto si è dato alla musica. Lui arriva da Riva del Garda, come vi raccontavo, e ha deciso appunto il proprio riscatto musicale, riscatto insomma civile, e così ci piace, e ci ha presentato questo Quattro Stipendi. A questo punto io direi volto pagina e vi presento adesso sì la nostra ragazza di cui volevo raccontarvi. Raffi ci presenta Niente di radio, Niente radio, questo è il singolo, e quindi ci ascoltiamo il pezzo. Piatto e poi, numero uno. Esatto, e poi vi racconto di lei. Un po' di dance ci vuole, vero? Rompiamo un po' questa atmosfera un po' pesa. Niente, non rimpiango niente, dopo quello. assente, non saremo ancora insieme. Raffi, niente, questa è la radio version, per quello prima forse è sfuggito radio. Su questo brano vorrei salutare Mirko che sta guarendo da un virus e niente, auguri di prontissima guarigione, così potrai presto rientrare in pista. Dai che non è niente, appunto, niente, anch'io mi accodo ovviamente a questo augurio. Dicevamo che Raffi ci ha presentato Niente in versione radio, ecco perché radio version. Raffaella Maria Senese, nata Raffi, è nata il 14 settembre 2000 a Mirandola, in provincia ovviamente di Modena, da madre rumena e padre italiano. Poi cosa succede? Che la sua passione per la musica la porta nel 2017 ad andare in Romania e lì praticamente conosce lo scenario musicale della dance e del pop e conosce anche Costi Ionita, nominato già ai Grammy Awards, è considerato uno dei produttori musicali più forti dell'industria musicale rumena e internazionale. Da lì insomma ai contatti giusti arriva a contattare Ivan Granatino e con alcune interventi eccetera arriva fino insomma al licenziamento di un suo singolo, e quindi qua è solo l'inizio per quanto la riguarda, insomma comincia a entrare nei giri giusti, come si suol dire. Complimenti Raffi, e se sono rose ovviamente fioriranno. Ah, le rose mancavano oggi, le rose mancavano mentre io è riuscito infilarle lì, mentre io distratto qui mentre io vado a prendermi un gioco cioccolatino, sì. Con il rum. Io do il cioccolatino, le do un mazzo di rose. Vi lancio la prossima. Chi è regia? Piatto numero 2, Marchio Bossa, I Asked For You. Ascoltiamolo. Think back our moment, and I ask for you. And I hope you felt the same, as she follows already me. Like a flash, your camera, having captured photos. A magical atmosphere that I can't forget. My skin, a kind sensation Allora qui è difficile spiegare tutto, ma l'album da quale abbiamo estratto questo I Ask For You è targato marchio Boss, è proprio il progetto che si chiama così, con I Ask For You il titolo dell'album. È una preziosa e ambiziosa partnership dei fratelli, appunto Pippo e Piero Lombardo, che hanno nel corso degli anni inciso e realizzato 8 album e più di 100 canzoni che poi vengono vendute in tutto il mondo, nel senso ci sono tante radio, tante FM, radio digitali, quant'altro, che estrapolano e prendono questi singoli che poi sono cantati anche da diversi cantanti. Pensate, sono numero uno in Thailandia, in Corea, in Giappone, non solo, vantano 12 milioni di streaming su Spotify e quant'altro. Insomma, questo è praticamente l'affermazione di questa etichetta tutta pugliese, che è appunto anche con il contributo della regione, appunto Puglia, è riuscita in pochi anni a diventare una realtà, un punto di riferimento non da poco, addirittura mondiale, perché fanno proprio, producono questi suoni. Bravo Paoletti, quello che posso aggiungere io è che siamo in piena sophisticated music. Esattamente così, perché poi ci sono diverse radio con diversi target e queste vengono rubate, per esempio The Monte Carlo Nights. Esatto, vero? Ma noi siamo all'ultimo brano di questa puntata numero 7. Ma come? È già finita. Bene, non ho fatto in tempo a svuotare questa scatola di cioccolatini, però basta con i cioccolatini, basta con le rose, andiamo avanti. Va bene, allora cosa ci rimane ancora da così ascoltarci? Piatto numero uno, ultimo brano per oggi, Moretti e il suo Un giorno ancora. Adesso lei che cammina sola, bella e fragile, senza un'età, per il corso mentre andava a scuola, l'anno della maturità. Quella strada ora così diversa, ma in fondo sempre la stessa. E quando lei si sente persa e sola, sfoglia i diari una volta ancora. Na, na, na, na, na, na, na. E lei gridava. Na, na, na, na, na, na, na. Vorrei un giorno ancora. La notte trema il cuore e perdo le parole. Prima o poi passerà, chiuso in bagno passano le ore, sfoglia i diari una volta ancora. Na, na, na, na, na, na, na. E lei grida. We'll be right back. ma che bella canzone per Moretti. Sono una band formata a Viterbo nel 2022 e sono in quattro se non sbaglio, e la band propone insomma questo mix tra cantautorato e musica indie pop. La ragazza protagonista di Un giorno ancora è praticamente la storia letta in un diario appunto di un adolescente con questo senso appunto di rivalsa. Bello, molto molto bello questo singolo, e a questo punto sento già la sigla che è arrivata in sottofondo. Pre-sigla, non imparerò mai, e questo ci consente di salutarci e ridarci l'appuntamento ovviamente fra 7 giorni. Molto bene, saremo, vero? Molto bene. Fra 7 giorni finisce qui questa puntata numero 7 di oggi, domenica 19 febbraio 2023. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltati. Siete stati tantissimi. Stefano, Marzia, Stefano di Bologna, Stefano di Vicenza, Marzia, Elena, la farmacista di Budrio, Mirko e via via. Insomma, grazie, grazie. Speriamo. Ringraziamo anche la redazione, sempre qui, che insomma, cavolo, si prodigano sempre nell'urlarci, nel bacchettarci. Comunque, è giusto, è così. Passare una bella oretta in spensierata allegria con della musica buona indipendente. Vi lasciamo la programmazione di Radio Tafugivo, che prevede fra poco le corrispondenze di Dani Corrucci, che salutiamo. Bene, come salutiamo tutti e tutte. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti, alla prossima. Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da-da-da.